Bisogna battere il ferro finché è caldo, quindi andiamo subito in diretta, concediamo un minuto di più di sigla per preparare i ricchi contributi che ha portato Carlotta per la puntata in mostra di oggi, 22 marzo, ovviamente giovedì. Carlotta, più mattiniera di me, praticamente mi hai aperto questa mattina, grazie, buongiorno. Buongiorno William, buongiorno a tutti e a tutti i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici. Sì, sto diventando sempre più mattiniera, è preoccupante questo. Puntuale, mattiniera, qualcosa sta cambiando. Sta succedendo qualcosa. Per me quando torni a Palermo dicono non va mica bene. No, così. No, non va benissimo. Non va proprio bene, cara Carlotta. Beh, insomma, però abbiamo fatto un ottimo lavoro. Anzi, scusa, hai fatto un ottimo lavoro. Ma cosa ti è saltato in mente di andare a Firenze? Quando mi hai telefonato per dire posso andare a Firenze? Guarda, a me fai solo un grandissimo regalo e penso che lo hai fatto anche alle ascoltatrici e agli ascoltatori e alla nostra radio. Quindi cosa ti è saltato in mente? Io amo Firenze, partiamo da questo presupposto. E poi ero incuriosita da questa mostra perché, non avendo vissuto gli anni 50 e gli anni 60, volevo appunto vedere un po' cosa succedeva in quegli anni, soprattutto a livello artistico. Ricordiamo che la maggior parte delle volte, ed è giusto che sia così, l'arte si mischia al contesto culturale, al contesto sociale e al contesto politico di un certo periodo storico. Per cui vedere questa mostra, ascoltare le parole del curatore, del direttore di Palazzo Strozzi e ammirare appunto i quadri e l'arte di quel periodo mi è servito tantissimo, perché ho conosciuto un altro po' di arte e storia di un periodo che ovviamente non ho vissuto. Che ci è sfuggito? Beh, a me è sfuggito il Rinascimento, dovevo andare molto indietro nel tempo, forse qualcuno, poi mi sono reincarnato, non lo so, talmente amo quel periodo. No, restiamo in tema, anche se una sorta di Rinascimento con il boom economico l'ha vissuto anche l'Italia negli anni 50, fino ad arrivare alle contestazioni di fine anni 60. Questo è il focus del periodo. Pensate poi che è stato un periodo, anche dal commento musicale che ne faremo, che è stato più valorizzato all'estero che in Italia. Sì, ha avuto tantissimo successo a livello internazionale, ma in Italia non era poco riconosciuto, ma come gli artisti di quel tempo. Infatti questa mostra, cioè gli artisti che espongono, che hanno, ovviamente, di cui le loro opere sono esposte in questa mostra, non erano ai tempi esposti nelle gallerie ufficiali. Infatti, perché ancora si prediligeva l'astrattismo, no? Certo. E invece un Fontana, piuttosto che Guttuso, che comunque Guttuso era un po' un'eccezione perché lui era esposto effettivamente. Senza tempo. Esatto. Però Fontana e tutti gli altri invece rispecchiavano l'alternativa di quello che veniva esposto in quel periodo. Per me c'era anche una difficoltà, se vogliamo, assolutamente, nel fare il passaggio sì, di sì, lettura sì, sì, e di comprensione. Ma anche perché era un periodo molto contraddittorio, perché appunto uscivamo dalla Seconda Guerra Mondiale, quindi eravamo ancora feriti, per così dire, e ci stavamo aprendo proprio alla ricostruzione di una nuova identità. Esatto. Quindi ovviamente anche l'arte era assolutamente contraddittoria. E soprattutto in queste contraddizioni, con partenza dall'informale, alla pop art, al monocromo, arriva all'arte povera e concettuale, pensate un po' quanta differenza e quanta eterogeneità c'è in queste correnti che più volte abbiamo conosciuto sulle nostre frequenze. Nascita di una nazione, Palazzo Strozzi, fino al 22 luglio. I nomi sono di prim'ordine, quindi Fontana, Burri, Guttuso, Vedova, Manzoni, Schifano, Merz, Pistoletto e tanti tanti altri, quindi direi che hai visto il meglio di sì, quell'epoca, eh? Hai onestamente sì. E poi con grande originalità per quanto riguarda il percorso e soprattutto il coraggio da parte degli organizzatori, del curatore e anche dello staff di Palazzo Strozzi, di proporre qualcosa non certo facilmente leggibile, ma quanto mai importante e presente per l'epoca. Allora, abbiamo diversi contributi, sì, ce li sì, puoi presentare? Assolutamente. Allora, alcuni contributi li abbiamo estrapolati dalla conferenza stampa in cui il curatore ha spiegato come sarà il percorso artistico, quindi la divisione degli ambienti, quello che troveremo nelle varie sale, che se non mi ricordo male sono 8. E quindi lui spiega cosa andiamo a vedere, gli artisti, poi c'è una sala in particolare che a me mi ha colpito tanto. Monocromo. Esatto, la sala tutta bianca, che è dedicata tra l'altro ai giovani, quindi è molto importante. E poi ovviamente abbiamo invece un contributo contributo sempre al curatore, fatto personalmente, che ci spiega un po' qual è l'obiettivo di questa mostra, perché hanno voluto portare l'alternativa artistica, chiamiamola così, di quegli anni. E poi abbiamo anche un contributo del direttore di Palazzo Strozzi, che ci spiega un po' la linea, tra virgolette, editoriale, esatto, di, esatto. Della sede espositiva. E questo, e direi questo che è abbastanza, abbiamo corposo, tanta roba, esatto. Sì, infatti, e ne parleremo magari intramezzando le voci dei protagonisti con un po' di musica, chiaramente. Quindi direi di entrare direttamente in mostra ascoltando la voce di Luca Massimo Berbero, curatore dell'esposizione. Chiedo scusa in anticipo un po' per l'audio, solo che c'era molta confusione, quindi magari si potrebbe sentire non troppo bene. La mostra apre con questo quadro che, replicato nel 1952, sarà esposto più o meno a quell'altezza sotto cui passerete, dopo questa specie di panottico di immagini, alla scuola dell'Istituto di Studi per il Partito Comunista alle Frattocchie di Roma. Ogni quadro è in realtà una piccola porta, un piccolo luogo in cui si può entrare. Dietro, nascosto dietro il muro, l'immagine di Turcato, invece completamente astratta, con il comizio del 1950. Luoghi comuni italiani, come fa a essere una cosa e anche completamente un'altra? Questa è una domanda a cui non sono mai riuscito a rispondere. Organico, figurativo, partito, organico, completamente astratto. Eppure ogni volta l'Italia rinasce come nazione attraverso le sue immagini, attraverso la sua storia dell'arte, attraverso il bisogno di sentire che l'arte è il suo punto di partenza. E questo è un po' quello che ho voluto anche così costruire in questo passaggio per ambienti. Non è un libro appeso ai muri, è una, come dire, è una scelta molto difficile. Soprattutto dietro c'è questo, l'ultimo dei re, che ci ricorda una cosa, che la nostra immagine, che non sarà mai pop, viene dalla stratigrafia della nostra civiltà, dall'idea che ogni muro ha sempre un lacerto, che c'è sempre un affresco, che c'è sempre un mattone diverso, che c'è sempre un muro romano dietro quello del 300, che c'è sempre qualcosa sotto le nostre radici, che noi affondiamo pesantemente, talvolta con grande resistenza, perché questa mostra narra anche la resistenza che la cultura ufficiale ha fatto contro quelli che vedrete in mostra, contro quelli che non sono Guttuso, che governerà, come dire, l'immaginario, non dimentichiamolo, popolare e di mercato fino agli anni Ottanta, i rotocalchi che scrivevano chiodi, stracci, immondizie spacciate per opere d'arte nel 1960, proprio di quel Burri, di quei personaggi incredibili che vedrete in mostra, e che costeranno interrogazioni parlamentari a una delle donne, guarda caso una donna, forse più forti, la Palma Bucarelli, che reggeva fortemente la Galleria Nazionale d'Arte Moderna di Roma, interrogazioni parlamentari proprio perché espose il Burri presente in mostra e il suo gemello che oggi alberga ancora la Galleria d'Arte Moderna. E lo stesso le accade per la merda di Manzoni. Insomma, quest'idea che quelli che noi oggi vediamo come maestri furono davvero pesantemente ostacolati da una cultura che non c'è in mostra, perché ovviamente abbiamo costruito degli ambienti, dei luoghi. We'll be right back. ascoltare la musica da vedere, come il Breakfast Club in mostra per questa settima stagione ha iniziato a proporre, grazie al lavoro di Carlotta Calarese, Valeria Sacco e anche Erika Verdecchia, questo per il teatro, e sarà domani protagonista sulle nostre frequenze. Quindi un attimo in più per un'ulteriore originalità all'interno della scrittura radiofonica. L'abbinamento musicale, siamo alla fine degli anni 60, la musica in Italia a sua volta segue anche questi percorsi, come inserendo l'aspetto visivo, l'aspetto di contemporaneità astratta, grazie a artisti come Piero Umiliani, Piccioni, lo stesso Morricone, diventeranno importanti a livello internazionale e paradossalmente, come succede per le esposizioni di cui ha appena dato notizia Carlotta, gli artisti di cui ha dato appena notizia Carlotta, anche per la musica non ci sarà una grande attenzione in Italia, diranno i musica da aeroporti, da ascensore, musica da intrattenimento facile, sono jingle, sono piccoli spot. Non è esattamente così, sono invece realtà assolutamente importanti, costruite, strutturate da grandi direttori d'orchestra, produttori e musicisti. Verrà definita cocktail music, verrà definita easy listening, ma c'è tanto tanto di più, e in Italia soprattutto, visto l'aspetto cinematografico dell'epoca, dove il commento musicale fondamentale andava a corredo di immagini molto molto interessanti. Questo, pensate, ha avuto più interesse all'estero piuttosto che in Italia, un po' come è successo per l'arte. Fortunatamente alcune etichette lungimiranti italiane alla fine degli anni 90 hanno deciso di ristampare questi dischi, e stiamo ascoltando da Piero Umiliani il Today Sound. Tantissima gente dalla conferenza, insomma. Tantissima, ambiente, sala piena, e per fortuna, perché no, vuol dire che ci interessiamo tutti all'arte, no? Sì, poi è una mostra, come dicevo, non certo facile, secondo no, me. No, assolutamente, non è facile né per chi la fa, né per chi la ne fruisce, ecco. Certo. Perché soprattutto per... comunque persone, soprattutto della mia generazione, no? Della mia età, magari non riusciamo proprio a comprendere fino in fondo il percorso artistico, perché ovviamente, non avendo vissuto quel periodo, lo vediamo un po' da esterni, lontano. Però ci proviamo. No, soprattutto, esatto, hai detto la parola giusta, ci proviamo e lo facciamo continuamente, perché questi artisti, Pistoletti, Burr, Bedova, sono costantemente presenti, sì, anche nell'arte concettuale del, sì, contemporaneo. Sì. Poi ovviamente io conoscevo Guttuso perché... Origini sicule, tra l'altro famosissimo suo, cioè La Bucceria, che è un quadro famosissimo, che è praticamente Palermo è tappezzata da queste riproduzioni. Stiamo parlando di un gigante dell'arte. Ovviamente. Questo è veramente... E infatti la prima sala si apre proprio con una sua opera, La Battaglia di Ponte Ammiraglio. La prima sala, appunto, è già fa vedere quanta contraddizione, brava, sì, sia nella società, sia nella storia dell'Italia, sia nell'arte c'era in quel periodo. Quindi La Battaglia di Ponte d'Ammiraglio, che faceva vedere come erano state le battaglie sociali di quel periodo, e poi invece, quindi ovviamente assolutamente un'opera realistica, e poi subito dopo un'opera astratta, anzi antirealistica, di Fontana. Quindi già l'opposto, la prima sala, esatto, c'è, ci sono due opere, sì, totalmente, sì, opposte. Sì. Ho parlato di Rinascimento, se vogliamo, ma per meglio dire, forse pensando alla prima opera come il nuovo Risorgimento, probabilmente da una definizione più esatta, La Battaglia di Ponte dell'Ammiraglio, 1955, sembra un lavoro di... ritratto storico di un momento importante della storia, una battaglia, non sembra certamente del 1955, no. Anzi, questo ci riporta a inizio 800, se vogliamo. Sembra Hayez, sembra quegli artisti che riprendevano la storicità in maniera assolutamente colorata, reale, concreta. E poi subito dopo ritroviamo invece, a proposito di contraddizione, tante altre opere che andavano in dialogo, certo come contenuto, ma come aspetto estetico e visivo completamente diverso. Seconda parte di intervista, vuoi anticipare qualcosa? Scusa, di contraddizione. Parlerà della seconda sala, e quindi andiamo ad ascoltare le sue parole. La seconda stanza è una stanza sul perdurare e sulla fine dell'informale. E la mostra non è sugli anni 50, la mostra è per inciampi. La mostra è questo guttuso che vuol dire 30 anni di cultura visiva italiana. La mostra è questa seconda sala che parla in una specie di accenno molto cupo, insomma, di quello che è scontri di situazioni, cioè il perdurare dell'informale. Pensate che nel 63 la Biennale del Titano, come si chiamava all'epoca, quella di San Marino, che era molto forte, parla ancora di oltre l'informale, quindi della continuità, della contingenza e della contemporaneità di questi artisti. Burri, Vedova, ovviamente Fontana con il primo lavoro che esegue tornato dagli Stati Uniti, quindi un'Italia che cresce, e poi al centro, leggevo così per ridere, ma mi diverte sempre molto, insomma, al centro una scultura di Leoncillo, prima c'è Colla, poi c'è Mirko, Sala Bianca, passerete dal buio, insomma, è vero che Bianco sia la luce, non è così detto, insomma, comunque, con un'idea di una generazione che è riuscita a liberare se stessa, cioè appena entrerete uno straordinario taglio di Fontana degli anni 60, è quasi monumentale, neoclassico. Fontana lo ha pensato, non è una cornice, ma con un diaframma bianco laccato, che proprio prende quella distanza come se fosse la colonna di un tempio. È vostro, è fiorentino, è un dono che Fontana fa alla città dopo l'alluvione del 66, perché gli anni 60 sono anche il Vajont, l'alluvione, sono dei grandi drammi, e apre questa grande stanza basata sulla superficie in colore, dove ovviamente avrete delle sorprese piuttosto curiose da Alberto Viani, come scultore straordinario all'epoca, famosissimo, oggi come dire tutto da ricordare, ha un albero bianco curiosissimo di consagra a Castellani, al gruppo Arsi, a Manzoni. Guido Manussardi, compositore, sentite come nel tempo dispari di Take Five, tipico del cool jazz, troviamo l'aspetto sia cinematico che mediterraneo di italianità, quindi una sorta di dialogo tra le sonorità tradizionali, permettetemi il termine, italiane, e quello che già era un cool jazz americano, che ha lasciato ovviamente grande traccia per le scritture moderne. Thank you. Molto velocemente le sezioni, il dopoguerra come nuovo risorgimento di cui abbiamo parlato, scontro tra situazioni per quanto riguarda l'aspetto contraddittorio, monocromo come libertà di cui ci parlerà Carlotta, metafisico quotidiano, i nuovi simboli, questo potrebbe essere adatto a colmento musicale che stiamo ascoltando, figure e gesti, cronaca e politica, certo che l'arte ha anticipato più volte le contraddizioni anche sociali e politiche, geografie possibili e si chiude con l'immaginazione. Appunto l'astratto al potere. Monocromo. Di che mamma si mia, tratta? A me sembra l'esame del sangue, ma quello è l'emocromo, che è un'altra cosa. No, questa sala è veramente d'impatto, ecco, perché ed è giusto che sia così, perché vuole rappresentare proprio il passaggio dal periodo cupo, dalle ferite riportate dal secondo dopoguerra, e finalmente ha alla luce, quindi la rinascita di questi giovani che vogliono lottare per ricostruire un'identità, per contestare tutto quello che è stato fino ad allora, e quindi è una super sala secondo me, e soprattutto anche perché in questa sala si vede, è molto evidente l'arte informale, cioè questi giovani stanchi che non riescono più a trasmettere un messaggio con l'arte tra virgolette comune, c'era in quel periodo, iniziano ad utilizzare materiali assolutamente atipici e nuovi come tele, band, persino cibo, quindi in questa sala ovviamente vediamo lo squarcio, no, di turcato, cioè la tela bianca con uno squarcio che non è caso bianco, cioè una pagina nuova sulla quale scrivere, assolutamente, no? Sì, è proprio molto molto d'impatto questa sala. Io tra l'altro lo sentiremo fra pochissimo nel contributo che ci ha rilasciato appunto il curatore che io ho chiesto io nell'intervista. Lui spiega proprio a chi è dedicata questa sala, ed è dedicata proprio ai giovani anche di oggi, no? Certo. Che dobbiamo cercare di lottare e contestare tutto quello che sta succedendo, perché facciamo finta che vada tutto bene, ma in realtà c'è qualcosa che non funziona. Quindi ultima no. Parte presa dalla conferenza stampa, musica, torniamo dopo la pubblicità perché abbiamo le voci proprio riprese con interviste, non con brani di conferenza, con Berbero, il curatore dell'esposizione, e Arturo Galansino, onore al merito, l'illuminato direttore di Palazzo Strozzi. Una serie di sale che parlano della nuova immagine, quindi il bianco e nero di un Cunelli stranissimo, una cosa di cetaceo che si butta dentro il pavimento di Strozzi, una sorta di nuova metafisica, Melotti, una piccola sala dedicata a, meno male che non si vede così, si vedrà meglio nella stanza, a Agnoli, un personaggio che amo particolarmente, proprio questa risposta, se vogliamo, della continuità di un immaginario borghese anche durante questi anni molto molto duri, e poi l'idea proprio di questo Cy Twombly che guarda nell'opera di Ceroli una sorta di grande Guri. Ma ci saranno i gesti, c'è Khrushchev, c'è Kennedy, c'è un'idea di un'Italia che cresce con la televisione, c'è Goldfinger, c'è quindi tutto quello che in un qualche modo è anche legato alla contestazione, c'è un'Italia di simboli. Da un lato c'è Franco Angeli, Schifano, c'è Paolini, ma soprattutto c'è questa idea di un'Italia, soprattutto a Roma, si diceva con Fabio prima, insomma, di un'Italia che fabbrica immagini, perché non dobbiamo dimenticarlo, l'Italia non ha aspettato l'America per fare immagini, l'Italia da sempre fabbrica immagini, fa l'insesto straordinario, insomma Roma ne è un po' il suo centro, pensate all'importanza di Cinecittà, quest'idea, sempre quest'idea insieme di un'Italia che ha questi contrasti pazzeschi e allo stesso tempo manifesta occupando l'idea dell'Italia, ma falce e martello, svastiche, fasci, perché sono sempre quelli che noi troviamo nei nostri muri. C'è un'idea di una nuova geografia possibile, l'Italia va al contrario, insomma, i Piper si aprono, c'è il mimetico di Boetti, c'è un'idea di un'arte che invece viene fatta soltanto di oggetti, una guerriglia in assoluto, le ultime sale sono molto dure, perché questa non è una mostra sul fatto che l'Italia fosse gegege negli anni 60, mi spiace tradire, questo è un senso per dimostrare che noi abbiamo un immaginario fortissimo che è anche quello, come dire, della cultura popolare, ma la nostra cultura popolare non è una cultura da scaffali di supermercato, la nostra cultura è una cultura di stratificazione di immagini, di radicalità, di forza, di segni molto importanti. Quello è sì dedicato al 1964 con l'apertura dell'autostrada del sole, ma non voglio e non vorrò mai dimenticare, soprattutto per i giovani a cui ho dedicato questa mostra, che qualcuno venne appeso al contrario in un piazzale a Roma per i piedi, insomma, a Milano, scusate. E in questo devo dire c'è una nuova geografia, ecco ovviamente Di Biasi, che ringrazio per aver proposto questo lavoro. semplicemente shabadabada, un contrasto, ma se vogliamo anche un motivo di dialogo. Sì, di contrasto abbiamo parlato, ma molte volte così lontano e così vicino. Ascoltando le parole di presentazione in conferenza stampa, qualche osservazione personale, probabilmente la difficoltà nella fruizione all'epoca, anche adesso fra l'altro, di nascita di una nazione, seppur restando una mostra gigantesca anche dai nomi semplicemente presenti, è perché le avanguardie, la ricerca ha cercato di dialogare secondo me con il pop. Sì. È questo un motivo di difficoltà, ha cercato di fare cose importanti, innovative, ispirate e anche difficili. La difficoltà diventa però anche quel ramo, quel braccio che cerca di andare a prendere, a raccogliere tra virgolette chi è rimasto indietro. C'è questo tentativo, secondo sì, me sì. Ma la mostra è un esempio la mostra di questo infatti, tentativo infatti, e anche questo brano ne è un esempio, perché ricorda al Piper, se vogliamo, la cosa più pop dell'epoca, degli anni 60, degli anni 70 se non prima, ma anche delle sonorità molto ricercate. Infatti io amo gli anni 70 proprio per questo, per la cultura popolare, perché io ho appena sfiorato quell'epoca, però ricordo che l'intrattenimento, che è una delle cose più pop, se vogliamo, più, anzi andiamo indietro, più mainstream, però aveva una qualità incredibile, aveva un modo di comunicare che, se pensiamo adesso, no, beh, è qualcosa di veramente molto più, non voglio dire ricercato, ma naturalmente ricercato, era normale. Cioè in prima serata c'era l'Odissea, per dirti, hai capito? Quindi adesso non è proprio così, no, però adesso c'è una serie TV oppure c'è uno che cucina, o poi non lo so perché non ho la televisione. Dall'86 ho cominciato a intercettare qualcosa che non andava e ho preferito occuparmi di altro, però fino a quel periodo c'è stato veramente un dialogo tra avanguardia e pop che secondo me è stato quello, certo, a dare difficoltà, ma chiaramente è come l'utopia, no? A cosa serve? Anche se non la puoi realizzare, serve a farci camminare e quindi serve a farci ragionare. A farci ragionare. Probabilmente uno dei messaggi di nascita di una nazione tra Guttuso, Fontana e Schifano. Immagino, poi magari tu hai visto nella sala bianca monocromatica, immagino allora la merda d'artista di Manzoni, sì. Immagino la coda di Cetaceo. Sì. Queste le dovevano mettere. Sì, sì, ovviamente no, ti ripeto, è stata una, cioè entrare lì dentro e da una sala precedente che ricordo è quella delle scontri di situazioni, che invece è una sala molto cupa, arrivare in una sala bianca è stato molto molto significativo, molto. E ti fa appunto ragionare, poi ovviamente grazie anche alle parole del curatore che ci ha accompagnato, quindi ha cercato di renderci più leggibile, ecco, le sale, per cui ovviamente è stato più semplice, però consiglio a tutti di fare questo passaggio, cioè passare dalla seconda sala alla terza, all'inizio senza pensarci, e poi verrà in automatico. Verrà in automatico una riflessione. Certo. Assolutamente. Beh, noi abbiamo sì. Una bella, tra virgolette, fortuna, certo, ci toccano viaggi, levatacce e quant'altro, però poter, ne vale la pena. Però poter visitare la mostra a fianco del curatore, indubbiamente è un po' diverso. Beh, però noi proseguiamo, a proposito di curatela di questa esposizione, con la voce di Barbero, il curatore dell'esposizione. Interrompo un attimo questa narrazione solo per ricordare che veniamo accolti, almeno da quello che ho letto in conferenza, tu lo potrai confermare visto che abbiamo parlato tantissimo di aspetto visivo, da dei video. Sì, 4 video proiezioni che raccontano appunto la storia dell'Italia dall'unità fino al 68, ecco. Anche perché mi ero scordata anche di dire che la mostra celebra anche il cinquantennio del 68, certo, ovviamente, che si festeggia quest'anno. Sì. 2018. Sentiamo l'intervista di Carlotta Calarese al curatore Barbero. Entrando nello specifico in mostra, qual è brevemente il percorso artistico? Sono in realtà sale che coprono essenzialmente 15 anni, partendo da un'idea invece molto figurativa con un quadro di Guttuso, via via a un'astrazione, al monocromo bianco, a una nuova figurazione forte, anche giocosa, insomma, rispetto al mondo che l'Italia sta vivendo, la nuova musica, il pop, eccetera. E poi piano piano piano diventa una mostra che parla di impegno politico, quindi quando i giovani, finalmente stanchi del conservatorismo, dell'essere ancora un paese reazionario, escono per le strade. Quindi c'è una grossa differenza fra un'Italia che oggi contesta con dei like e un'Italia che invece esce per strada e porta per strada le sue bandiere. Dentro l'esposizione c'è una sala tutta bianca. Che valore ha e a chi è dedicata? È dedicata ai giovani perché dopo un decennio come quello degli anni 50, in cui tutti parlavano di esistenza, di materia, di dolore, di dopoguerra, hanno il coraggio di prendere un foglio nuovo, fare una lavagna veramente pulita, ma non una lavagna nera, una lavagna bianca, prendere un foglio bianco e incominciare a scrivere con libertà. Vista la contraddizione e la diversità degli artisti, come è riuscito a farli dialogare tra di loro in mostra? Le mostre sono come le feste. Bisogna inventare le persone giuste e fare sì che quelle giuste vengano, quelle sbagliate non siano invitate, ma soprattutto che chiunque venga in mostra si diverta con gli occhi e soprattutto provi una gioia col cuore. Grazie mille. A voi. C'è un motivo di partenza questa esposizione, nascita di una nazione tra Guttuso, Fontana e Schifano e a Palazzo Strozzi. In apertura, Carlotta, dicevi di una linea editoriale, esattamente così, tra il contemporaneo, l'avanguardia e la ricerca, una sede espositiva che con la cura, la direzione di Arturo Galansino porta avanti questi percorsi. Abbiamo conosciuto Ai Weiwei anche all'interno di questa sede espositiva, abbiamo vissuto mostre che ci riportano a un linguaggio moderno, per cui in una città della classicità ritroviamo sì, anche questo contrasto che è quanto mai piacevole. Ma lui infatti lo dirà poi nell'intervista che sono riuscita a fare, e tra l'altro volevo sottolineare anche il fatto che in una domanda che sentirete io gli chiedo se questa mostra fa parte della linea, tra virgolette, ripeto, editoriale della sede espositiva, o sia una mostra, tra virgolette, eccezionale. Invece certo, lui dice proprio che fa parte del certo, palinsesto sì, di Palazzo Strozzi, no? Che ovviamente sì, l'intento è quello di far vedere il nuovo, la ricerca e la sperimentazione, però sempre con un approccio didattico. Ecco, questo storico e didattico soprattutto. E questa è una cosa importante, secondo me. Ultima parte di intervista, ultima parte della nostra rubrica in mostra, come al solito ricchissima, musica, contributi e esposizioni ovviamente che vanno sotto il focus e l'analisi di questi curatori che ogni volta danno valore aggiunto non solo al nostro format ma anche di contenuto. Sentiamo allora il direttore Galansino di Palazzo Strozzi per concludere questa nostra mini rassegna. Da dove è nata l'idea di questa esposizione? Beh, volevamo raccontare in un modo nuovo, originale, avvincente, 20 anni di storia dell'arte in Italia, e farlo soprattutto attraverso un filtro storico, ovvero fare capire come la storia dell'arte in Italia in questo periodo così variegata e multiforme fosse legata appunto a un discorso più ampio di grandi trasformazioni nazionali a livello economico, sociale, storico appunto. Quindi da qui l'idea per insegnare al nostro pubblico qualcosa di più appunto del nostro recente passato che oggi sembra così lontano. Abbiamo scelto questo ventennio, quindi dal dopoguerra al 68, non soltanto per celebrare il cinquantennio del 68 appunto, ma perché è un momento di grande esplosione, di un momento positivo, certo con molte contraddizioni, lotte, vedrete in mostra appunto il momento del 68, le contestazioni, lo stesso dopoguerra, che è chiaramente un momento drammatico e difficile per il nostro paese, ma c'è un momento in cui si cresce, si ha un grande ottimismo per il futuro, e da qui credo non si possa vedere piuttosto bene in mostra appunto questa voglia anche di sperimentare dei nostri artisti. È una storia complessa che abbiamo cercato di semplificare raccontandola per cesure e tagli, come si fa appunto con le storie così complicate e così ormai lontane, ovvero che necessitano di una storicizzazione, di un racconto un pochino con una visione da distante, dall'alto. Ecco, questo è stato fatto appunto tra tagli, cesure e scelte, e credo che ne venga fuori un percorso magnifico, sia dal punto di vista educativo che dal punto di vista dello spettacolo per i nostri occhi. Questa particolare mostra fa parte di un percorso specifico di Palazzo Strozzi oppure è una mostra, diciamo, eccezionale? No, tutta la nostra programmazione è fatta a tavolino con molti anni d'anticipo, quindi assolutamente questa mostra rientra in un piano generale che è quello della Fondazione Palazzo Strozzi, di portare a Firenze e in Italia eventi di altissima qualità, di spessore assolutamente internazionale. Questo è un evento, una mostra molto originale anche nel panorama italiano, mai è stata raccontata in questo modo questa storia, e io credo che il pubblico lo capirà assolutamente. Ma poi c'è anche il discorso del moderno e contemporaneo, ovvero quello di portare una città passatista come la nostra, cercare di trasformarla come un laboratorio dell'arte del presente. Il Palazzo Strozzi da qualche anno ha cominciato la sua programmazione in questo settore con grande successo, attestandosi come l'istituzione di maggior successo appunto nel nostro paese nel mondo del moderno e contemporaneo, e quindi continuiamo su questa strada, portando i grandi artisti e portando ormai l'arte del passato, ma questo grandissimo passato recente, cercando appunto di farlo rivalutare, ripensare e soprattutto capire, comprendere al nostro pubblico. Da quando a quando sarà aperta la mostra? La mostra è aperta dal 16 marzo fino al 22 luglio 2018. La ringrazio. Grazie a te. Meravigliosa Firenze, torniamo a Bologna, ringraziamo ancora una volta Arturo Galanzino, che è nel nostro All-Star Game dei direttori preferiti, si può dire, no? Sì. Come Maria Luisa Pacelli, come Luigi Di Corato della sede municipale museale di Brescia, veramente anche questa voce presente al Breakfast Club per dare spazio a un territorio nazionale che molte volte, il più delle volte, guarda con lungimiranza a un percorso che va oltre confine, con questa esposizione per far conoscere un periodo storico importante, la nascita di una nazione tra gli anni 50 e la fine degli anni 60, alcuni nomi: Guttuso, Fontana e Schifano. Abbiamo tempo fino al 22 luglio. Grazie Carlotta. Grazie a voi, grazie a te, soprattutto che mi dai opportunità. Beh, è opportunità quanto mai meritata. Occhio al cranio, non è una minaccia, perché tanto non ho più bisogno di tenerti così sotto controllo, perché sei più puntuale di me e più precisa, per cui missione compiuta, però a quanto pare i nostri edipeisti sono più severi, perché il titolo dell'edipeo è questo: occhio al cranio. Poi scrivono con la K. Non ho capito se è una reminiscenza a tale proposito degli anni 70, perché era un modo per minacciare. Sì, ma non solo anni 70, anche no, un po' più in là, oltre, sai. Certo, è stata ereditata sicuramente, però ad esempio Cossiga lo scrivevano con la K per dargli un che di duro. Di dure, forte, soprattutto per criticarlo, certamente con un aspetto dittatoriale. Qui occhio al cranio, dove c'è la C dura completamente scritto e ripreso con la K. Tra pochissimo sulle nostre frequenze torneremo giovedì prossimo per quanto riguarda le grandi esposizioni con... Penso Valeria. Beh, Valeria, certo, però per me tu sarai informata sui fatti. Ah, sì, sì, Artemisia, dico solo questo. Artemisia che ogni volta a Palazzo Albergati porta contenuti importanti. Quindi questo cosa vuol dire? Che torniamo a Bologna. A Bologna per conoscere l'arte del sollevante. Questo sarà in presentazione nella giornata di domani. Se riusciamo, come è molto probabile, portiamo poi giovedì prossimo i contenuti. In mostra, vi ringrazio per l'attenzione. Vi dà appuntamento, come ho già detto, a giovedì prossimo. Tra pochissimo con Alfredo Pasquali e Paolo Zama, la rassegna stampa all'interno di Radio Zanardi. Dopo abbiamo Angela Zocco e Andrea Gozza, This is a Rock and Roll Radio. Abbiamo un corposo last minute anticipato dal GR Iskra, per cui non cambiate frequenza, restate con noi. Una buona giornata, un buon ascolto, un buon giovedì 22 marzo da Carlotta Calarese e William Piana. Ciao.